questo è il nuovo stile. Mi hanno detto che questo è il nuovo stile. Questo è il nuovo stile. Anche che questo è il nuovo stile. Quattro chiodi per MC e mani radici. Marchiate su braccia, tre soci, due baci. Oh, sei sere che scremano i lividi. Dividili per 3000 rondini. Oh, 04 punti crudi reggono. Incollano pizza, incastri per rimedi, legno e per contorno MC. Mordente a quattro mani e setole. Son gioie queste prove per proteggersi. Sì, le parti fragili, tre MC da disciplina. Rime dal profondo per un pensiero unico. Uniti dalla forza IGZ. Farci in quattro parti, fatici, cucimi addosso spigoli. Strade, vicoli, questo è nuovo city. Angoli, spigoli, questo è nuovo city. Strade, vicoli, questo è nuovo city. Angoli, spigoli, questo è nuovo city. Magici attimi, incastri e contatti si fondono, si uniscono. Limatici amanti di neve e guanti. Trafitte bagnate, fette di strade. 3D di Frodo, noi tre, super fradici MC. Noi tre tradirci mai non ci, noi BG. Arte, special stack, Kimuji. Tira giri immagini, mitici fisse e margine. Mangiami crudo o tagli dal vivo. Ammiro luci, dopo rispengo i sogni per un attimo. Tanto so di ritrovarmi intatti in cubi tragici. Strade, vicoli, queste nuove city. Angoli, spigoli, queste nuove city. Strade, vicoli, queste nuove city. Angoli, spigoli, queste nuove city. Dammi 3 minuti che ho. Alterazioni di metriche, anime di rame, mani aride. Rumori vetri che si spezzano vita. Spago, legno, colla, proprietà viva. Su strade, collane di rime e corone, morsi da fame. Tre binari per andare, devo andarmene dove. Poi nomino gli ultimi vivi. Noi in piedi su stimoli istinti, indistruttibili noi. Messaggi in bottiglia per ritrovarli lontano. Ci siamo, inseparabili. MC da cartolina, nuovamente sotto gli alberi. Antidoti nascosti in scatole di plastica. L'amaro lo sputato. Strade, vicoli, queste è New York City. Angoli, spigoli, queste è New York City. Strade, vicoli, queste è New York City. Angoli, spigoli, queste è New York City. Strade, vicoli, queste è New York City. Angoli, spigoli, queste è New York City. Strade, vicoli, queste è New York City. Angoli, spigoli, queste è New York City. Strade, vicoli, queste è New York City. Angoli, spigoli.